entrerà nella sua gioia per sempre. Sfugge a molti che le profezie hanno anche questo scopo. Infatti, che senso ha leggere la Bibbia centinaia di profezie velate che per noi non costituiscono nessuna utilità? Che senso ha leggere giudizi su città come Babilonia o Tiro avveratisi puntualmente centinaia di anni fa? Lo esprime bene il profeta Isaia. Ascoltiamo. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Ciò che l'Eterno ha detto si avvererà sempre. Uniche sono le profezie di Dio, unica è la fede cristiana. Vi è un quinto elemento che senza ombra di dubbio rende la fede cristiana unica in tutti i sensi. La fede in un Dio trino. Per molti questo aspetto non costituisce più una novità, perché è una parte della fede cristiana che si sente predicare da 2000 anni. E si sa, qualsiasi cosa straordinaria, quando è nota, non stupisce più di tanto. Ci sono persone che fanno sacrifici e chilometri per vedere paesaggi e costumi di popoli, quando chi vi abita non vi fa più caso. Così è della fede in un Dio trino. Per comprendere l'unicità di questa fede nella sua originalità, occorre tenere presente che essa scaturisce da un popolo con una fede monoteista e con una tradizione millenaria che la divinità non può assolutamente avere un corpo umano. Ebbene, il cristianesimo, benché fonda le sue radici nella fede monoteistica assoluta ebraica, afferma sì l'opposto, ma per completarlo. Il cristianesimo afferma di credere in una sola divinità, ma che in essa sussistono tre persone uguali, ma distinte. Una simile fede è contraria ad ogni logica umana, non è appiena comprensibile, non è neppure attraente, e questo rende ancora di più il cristianesimo una fede unica e non umana. Nessuno che desideri fare degli adepti cercherà di proporre dottrine su Dio incomprensibili, artificiose, enigmatiche, fuori di ogni comprensione all'intelletto. Eppure, proprio perché la religione cristiana non è una fede creata dagli uomini, essa contiene aspetti i quali non possono essere che definiti divini. È vero che tutte le religioni hanno una divinità a loro oscura al di sopra della comprensione umana, ma definirne i limiti, come nel caso del cristianesimo, che Dio è uno, ma in tre persone distinte, per poi dire che sono incomprensibili, solo il cristianesimo lo fa. Il cristianesimo si propone come una sfida, l'unica vera sfida. Mediante il profeta Abacuc, l'Eterno Dio dice: «Guardate fra le nazioni e osservate, siate stupefatti e sbalorditi, perché io compirò ai vostri giorni un'opera che voi non credereste, anche se ve la raccontassero». È possibile credere che un bambino nasca da una vergine? È possibile che un morto risorga? È possibile ad una persona umana non commettere nessun errore? È possibile per un uomo essere l'adempimento di centinaia di profezie? È possibile credere ad una divinità che è una, ma contemporaneamente è tre persone distinte? Non è possibile crederlo, a meno che questo uomo non sia Dio, il quale, come tale, non dipende dai rapporti umani, non può essere ritenuto dalla morte, è perfetto